riprender la marcia si aspetta, nel riposo ogni bravo soldato un pensiero rivolge per l'altar amor. Per io tesor dormi e sogno sul tuo cardinale fin, papà veglierà sulla vetta col pensiero a te vicin. Dal ciel col tuo ben scelte l'angelo divino si dirò, il babbo vittorioso tornerà. Allora mio tesor nei tuoi sogni tanta pace regnerà. C'è sempre una mamma che sorrida al suo grande tesoro e cantando la sua ninna nanna l'addormenta stringendo il cuore. Amor mio tesoro, sulla vetta col pensiero a te vicin, dal ciel col suo bel scende l'angelo divino e ti dirò, il babbo vittorioso tornerà. Vittorioso tornerò.